Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Immaginiamo una rete che colleghi i vari porti del Mediterraneo e del Nord Europa e che permetta di trasportare merci sui TIR in modo più sostenibile, evitando di congestionare le strade, le autostrade del mare. È questo il nome del progetto europeo che ha l'obiettivo di potenziare la movimentazione merci via mare, integrandola con quello via terra. Per far questo in Italia nel 2004 è nata RAM, Rete Autostrade Mediterranee, con l'obiettivo di sviluppare la logistica e l'intermodalità marittima. Una delle misure presenti nella scorsa legge di stabilità prevede proprio un incentivo per il combinato strada-mare attraverso il Mare Bonus, una forma di contributo triennale per le imprese di trasporto marittimo che spostano camion e rimorchi. Quali sono i principali vantaggi di questo tipo di trasferimento modale e quali le conseguenze per il mondo dell'autotrasporto? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E c'è un tema che riguarda questo mondo che è assolutamente centrale, quello delle autostrade del mare, quindi della possibilità di spostare quote importanti di merci dalla strada al mare o anche ad altre modalità come ad esempio quella ferroviaria. Ma oggi ci occupiamo in particolare di mare, lo facciamo in compagnia di Francesco Benevolo, che è il direttore di RAM, la Rete Autostrade Mediterranee. Benevolo, innanzitutto, che cos'è RAM e qual è la sua importanza per quanto riguarda le autostrade del mare? Dunque, RAM, Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., è una società pubblica che opera per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, creata nel 2004 per l'attuazione del programma delle autostrade del mare, così come rilanciato dall'Unione Europea proprio in quegli anni. Si occupa di sviluppare la logistica, l'intermodalità, in particolare quella sul mare, ed è il braccio operativo del Ministero delle Infrastrutture per l'attuazione del Piano Nazionale Strategico dei Porti e della Logistica. Fin qui le sue competenze, come dire, istituzionali. C'è però un dibattito molto acceso in questi ultimi mesi che riguarda il cosiddetto mare bonus, cioè un incentivo che il governo dà per il trasferimento modale delle merci. Il ministro Del Rio ha voluto fortemente incentivare l'intermodalità marittima e quella ferroviaria con la cosiddetta cura dell'acqua e la cura del ferro. Una delle misure previste dal suo piano nazionale dei porti è stata proprio quella di attivare un incentivo all'intermodalità strada-mare, ovvero il famoso mare bonus, che ha trovato stanziamento lo scorso anno triennale proprio nella legge di stabilità. Possiamo spiegare allora in che cosa consiste questo mare bonus da un punto di vista assolutamente operativo? Cosa succederà e quale sarà il vantaggio per questo trasferimento modale e quindi anche per l'ambiente? Allora, il provvedimento prevede che le imprese di trasporto marittimo possano presentare dei progetti triennali per il triennio a questo punto 2017-2019 per avviare nuovi servizi di trasporto di autostrade del mare o per migliorare i servizi esistenti attraverso alcune tipologie di miglioramento tassativamente previste dal decreto stesso. Questi progetti verranno vagliati dal Ministero attraverso la RAM e ogni anno sostanzialmente si verificherà l'attuazione di questo progetto, si riconoscerà un contributo, un incentivo alle imprese di trasporto pari a un certo ammontare per ogni camion trasportato e gli armatori avranno l'obbligo di riversare almeno il 70% del contributo ricevuto alla propria clientela, quindi alle imprese di autotrasporto, alle imprese di trasporto merci che avranno viaggiato con queste navi. Quindi in questa maniera si incentiva l'avvio e il miglioramento di autostrade del mare, ma si incentiva parimenti chi sceglierà le autostrade del mare in alternativa al trasporto stradale. A proposito di autotrasporto, come garantire che questa modalità possa beneficiare realmente dei contributi che transitano però attraverso gli armatori? Allora, il meccanismo è stato scelto per poter essere in linea con le linee guida per gli aiuti di Stato al trasporto marittimo che sono state elaborate da Bruxelles nel 2004. Purtroppo sono linee guida un po' vecchie, molto datate, che prevedevano incentivi solo allo start-up di Autostrade del Mare, non al modal shift, al trasferimento modale. Quindi un limite certamente Bruxelles ce l'ha imposto a monte del provvedimento. Per quanto riguarda l'attuazione, certamente il Ministero vigilerà anche attraverso la RAM e cercheremo di garantire agli autotrasportatori, a chi carica la merce, il rispetto delle condizioni del provvedimento e quindi che venga effettivamente mantenuto inalterato il livello delle tariffe, ma si consenta di incentivare chi sceglie la nave con un'effettiva riduzione dei costi sostenuti. Certo, viviamo in un momento di forte crisi, lo sappiamo tutti, una crisi che si riflette anche sul mondo dei trasporti e lo vediamo anche dai numeri e dalle statistiche di questi ultimi anni, anche se forse negli ultimi mesi registriamo una leggera ripresa. Che tipo di impatto ci si aspetta da questo provvedimento, dal Mare Bonus in particolare per quanto riguarda il trasferimento modale di merci dalla strada al mare, appunto? Noi ci aspettiamo un incremento significativo di trasporto intermodale che congiuntamente all'incremento dell'intermodalità via ferro che vogliamo promuovere col ferro bonus contribuirà a decongestionare le nostre strade. Ricordiamoci che l'Europa ha dato come obiettivo al 2030 che il 30% delle merci sulle medie e lunghe distanze, quindi sopra 300 km, dovrà viaggiare con sistemi intermodali. Noi oggi siamo su percentuali molto più basse sia sul mare che sul ferro, quindi dobbiamo assolutamente raggiungere il target del 30% al 2030. Questo peraltro ci aiuterà anche a perseguire obiettivi ambientalmente sostenibili che peraltro stiamo anche cercando di conseguire su altri fronti. Penso ad esempio al tema dei green e smart ports, quindi tutto il tema di rendere ambientalmente sostenibili per esempio gli hub portuali, così come appunto anche tutti gli interventi sul vettore marittimo, LNG, scrub per abbattere i fumi delle navi. Quindi è tutto un insieme di misure che punta a incrementare l'intermodalità e a aumentare le nostre performance ambientali nel sistema del trasporto. Benevolo, siamo in chiusura. Un'ultima battuta. La riforma della portualità e della logistica voluta dal ministro Del Rio, che ha in qualche modo semplificato anche l'apparato burocratico che regna e che gestisce i porti, come impatta, che influenza avrà su questo provvedimento di semplificazione e di incremento delle autostrade del mare? Il condensare, quindi ridurre il numero delle autorità portuali, lavorare per sistemi portuali e non più per singoli porti, lavorare come stiamo facendo nel Mezzogiorno con i fondi PON per aree logistiche integrate, quindi lavorare sul network, lavorare sul mettere insieme investimenti. Ricordiamo la grande innovazione del piano, che è quella della creazione della Conferenza Nazionale Strategica dei Porti, quindi questo momento di coordinamento degli investimenti dei porti a livello nazionale. Sono tutte azioni sinergiche che possono senz'altro contribuire a raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei di rilancio del sistema logistico e farci recuperare finalmente quei famosi 40 miliardi di euro di cui tanto si parla, no, l'anno. Di inefficienza logistica. Di inefficienza logistica, certo. Bravissimo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.